È un rapporto estremamente corposo che tra l'altro è stato chiuso alcuni giorni fa al summit a Incheon in Corea del Sud. È un rapporto di ben 400 pagine che dice in maniera abbastanza chiara per chi ha a cuore, diciamo, le sorti di questo pianeta, che non c'è più tempo da perdere. In sintesi, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, IPCC, dice in maniera molto chiara che entro il 2030 il riscaldamento globale avrà un aumento di 1,5 gradi Celsius, e questo sarà un fatto che determinerà uno scenario dal punto di vista del cambiamento climatico, secondo l'IPCC, estremamente drammatico. Gli scenari che loro intravedono in questo rapporto riguardano ovviamente l'innalzamento dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai e tutta una serie di aumenti di eventi climatici catastrofici, con tutta una serie anche di conseguenze dal punto di vista, diciamo, dei processi di desertificazione che riguardano alcune aree del nostro pianeta, che prima si pensasse che riguardassero l'Africa, con ciò che ne riguarda anche dal punto di vista dei cosiddetti profughi e dei flussi migratori, profughi climatici, ma riguarda anche le zone d'Europa. Pensate ad esempio che in Italia molte aree, specialmente nel sud, stanno avviando verso un forte processo di desertificazione. Questo è molto grave se pensiamo al tema ovviamente della catena alimentare e dell'agricoltura. Rispetto per esempio all'accordo di Parigi sul clima, è diventato quindi obsoleto, perché in quel caso si parlava, se non sbaglio, di un limite all'aumento delle temperature di 2 gradi centigradi, non di 1,5 gradi. Si parlava di 2 gradi centigradi, però si poneva anche l'obiettivo di 1,5 gradi all'interno dell'accordo di Parigi. Il problema non è se quell'accordo di Parigi è obsoleto o meno. Magari ci fosse un impegno di tutti i paesi del mondo di andare verso quella direzione, ma ci sono stati dei cambiamenti politici nel pianeta. Pensiamo ad esempio alla decisione di Trump di riprendere la produzione del carbone, e quindi della produzione di energia elettrica di carbone, di annullare molte scelte che si andavano verso le energie alternative fatte dall'amministrazione Obama, o di riprendere ad esempio le trivellazioni che erano state vietate da quell'amministrazione. E ci sono, diciamo, ad esempio, notizia di alcuni giorni fa, poche ore fa, in Brasile ci sono state le elezioni che hanno visto questo candidato dell'estrema destra, che si chiama Bolsonaro, porre tra i primi obiettivi l'uscita dagli accordi di Parigi. Quindi c'è un problema molto serio che riguarda la non consapevolezza di un sistema produttivo e politico dei rischi a cui stiamo andando incontro, e questa non consapevolezza la chiamiamo, diciamo, l'ego del profitto, ecco. E infatti, passando a una domanda un pochino più politica, diciamo, al di là delle svolte a destra degli ultimi anni, però in generale è possibile riuscire veramente ad applicare delle politiche ambientali ragionate, quindi che guardino a lungo periodo e che non pongano il profitto come punto, diciamo, principale, l'economia di breve termine sempre al centro, in un sistema comunque politico ed economico come quello che viviamo? Cioè, voglio dire, anche un'amministrazione che non sia estrema, come può essere quella di Trump o come potrebbe essere quella di Bolsonaro se passasse al ballottaggio, può effettivamente riuscire in questo sistema politico ed economico a mettere al centro l'ambiente? Si sono fatti in questi anni grandi sforzi. C'è un sistema produttivo che ha capito l'importanza. Ci sono tante imprese che stanno investendo nella innovazione tecnologica, nella sostenibilità ambientale, nelle energie pulite. Però il tema è che ancora oggi c'è legame tra politica e lobby energetiche, e comunque sia un certo sistema produttivo che non vuole assolutamente andare verso una direzione che rappresenta un freno al cambiamento. Lo vediamo anche, devo dire, al nostro governo. Oggi, proprio oggi, noi come Verdi ci stiamo occupando di una norma che è stata inserita, ad esempio, nel decreto Genova, su Genova, cioè del Ponte Morandi. È stata inserita in una norma che praticamente prevede di aumentare i limiti di spargimento dei fanghi da depurazione, sia per uso civile che industriale, sui suoli agricoli, aumentando i limiti degli idrocarburi. Quando dico aumento i limiti degli idrocarburi, si intende che da 20 mg per chilo passano a 1000 mg per chilo. Quindi questo significa un attacco alle falde, all'acqua, alla catena alimentare, alla nostra agricoltura, alla salute. E lo ha fatto questo governo. Lo ha fatto questo governo, tra l'altro, di una componente che nelle 5 Stelle aveva quella ambientale, e che in questa maniera sta sta facendo un grande favore a quelli che vengono chiamati i cosiddetti fanghisti, quelli che diciamo in questo caso si sì, fanno profitto spargendo di fanghi sui suoli agricoli. Ecco, ho fatto questo esempio per capire che oggi il tema dell'ambiente ancora oggi si mette in collisione con determinati interessi economici, perché quegli interessi economici non intendono ovviamente prendere la strada dell'innovazione, del cambiamento, della sostenibilità ambientale, che prima o poi sarà inevitabile, ma il problema è che quando ci arriveremo rischia di essere troppo tardi.